Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Nel 1994 ci si attendeva dal governo un intervento forte di contrasto alla corruzione, invece fu approvato un decreto legge che vietava la custodia cautelare in carcere per coloro che erano imputati di corruzione. Questo governo intende combattere, perché noi siamo stato di pulizia, le pene sulla corruzione devono essere sicuramente aumentate. Nel 2002 ci fu la depenalizzazione di fatto del falso in bilancio, nel 2005 furono ridotti i termini di prescrizione. Pensare che si possa semplicemente arrivare a prescrivere la corruzione è inaccettabile. Uno Stato che si rispetti dovrebbe prendere a schiaffi, diciamo virtualmente, sì, ovviamente, i corrotti e accarezzare coloro che svolgono il controllo di legalità, cioè i magistrati. Purtroppo in Italia è accaduto l'esatto contrario. Autorevoli servitori dello Stato hanno detto che lo Stato dà gli schiaffi ai magistrati e le carezze ai corrotti. Sostenere questo, avendo responsabilità istituzionali o comunque responsabilità a nome di categorie, è triste. Allora, Rodolfo Sabelli, buongiorno, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, è pentito di aver detto quella frase così forte contro lo Stato? Pentito, ma no, certo che no, ho usato una metafora, ma una metafora che esprime dati reali. Senta, ma lo Stato chi è? Il governo, quindi? Ma Stato, nella sua intenzione, l'ho usato come un'espressione sintetica, poi a seconda dei casi può intendersi il governo, può intendersi la maggioranza politica, ma può intendersi in questo anche... caso era il governo. A seconda poi, perché ho fatto riferimento alle riforme, ho fatto riferimento alle offese, quindi di volta in volta il governo, maggioranza politica o anche singoli esponenti politici. Senta, il procuratore di Venezia Nord però dice che parlare di schiaffi è improprio e ingiustificato. Ha torto? Ripeto, è una metafora, ha torto perché si tratta di una metafora, ma del resto quando siamo stati definiti metastasi della democrazia, che cos'era questa, una carezza? Chi è che l'aveva detto? Berlusconi. Vabbè, ma adesso stiamo parlando di Renzi. Senta, comunque Renzi... Parliamo di vent'anni. Sempre di vent'anni. Senta, comunque Renzi le ha risposto. 1-1 palla al centro? Ma non userei metafore calcistiche, no. Però poi... visto che usa metafore, io ne uso uno anch'io. Certo, però questa... No, ha ragione, però questa non è una partita, ma rischia poi di diventare una sconfitta per tutti se non riusciamo a guardare i problemi veri, i problemi reali del paese. Senta, ieri lei ha incontrato il presidente Sergio Mattarella. Gli ha detto che vi siete sentiti presi a schiaffi dal governo? Beh, al capo dello Stato abbiamo espresso il disagio che proviamo per anni di delegittimazione, per anni di riforma. No, ma diciamo, ok, ma gli ha detto che vi siete sentiti presi a schiaffi? Beh, schiaffi, ripeto, è una metafora che però esprime l'effetto dello schiaffo e il disagio. Mm. Naturalmente l'uso del linguaggio istituzionale non è quello che si usa in occasione di una trasmissione televisiva, è chiaro. Certo. Senta, però volevo dire... Il prossimo, se non gliel'ha detto, perché non gliel'ha detto? Cosa non gliel'ha no, detto? No, al Presidente della Repubblica. Degli schiaffi? Sì. Ma il concetto gliel'ho espresso, come? Perché al Capo dello Stato, ripeto, il disagio gliel'abbiamo espresso. Senta, però, abbiamo Presidente... fatto esplicito riferimento alla delegittimazione, alle riforme sbagliate. Presidente Sabelli, però, al di là del dire o non dire, non è pericoloso alzare così i toni del confronto? Guardi, il nostro compito come associazione è anche quello di segnalare i problemi, le cattive riforme, e allora i toni possono servire anche a richiamare l'attenzione. Poi quindi, si capisce che non ha senso usare tutti i giorni gli stessi toni. Insomma, tra politica e magistratura non si riesce ad andare oltre una lite infinita, però non è un bene per la democrazia. Ma no, ma guardi, fra NM e mondo politico c'è un confronto continuo, però è chiaro che la nostra è anche una funzione di controllo e anche una funzione di critica. Guardi, un secolo fa il governo ha cominciato a litigare con l'associazione magistrati prima ancora che l'associazione nascesse, quindi non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Direi. Senta, ma in questo rapporto tra politica e magistratura non c'è un'ipocrisia, una grande ipocrisia da parte di entrambi? Ma io, guardi, neanche se mi sforzo riesco a essere ipocrita, spero che... Ma non che dico questo... lei personalmente, ma io come rappresentante come rappresentante in questo caso della categoria, dell'associazione, mi auguro che valga lo stesso per tutti. Senta, ma in parole povere, i magistrati sentono una voglia di normalizzazione e resistono da parte della politica, è questo? Guardi, il rischio di una normalizzazione c'è, e quando parlo di normalizzazione intendo il rischio di un'azione giudiziaria innocua, poco efficace, il conformismo giudiziario. Questo è il motivo per cui, per esempio, ci siamo opposti a qualsiasi forma di introduzione di controllo sull'interpretazione della legge o sul contenuto dei provvedimenti giudiziari quando si è trattato di riformare la responsabilità civile. E i magistrati dove hanno sbagliato? Dove hanno esagerato? Ma c'è da qualche parte oppure sono perfetti? No, beh, la perfezione, perfetto non è nessuno. La, no, la ma allora volevo sapere. Che mi viene in mente, per esempio, è un eccesso di esposizione personale. Però poi direi che il gioco dell'autocritica sulle colpe di categoria dovrebbero farlo tutti, non solo i magistrati. No, no, ma io adesso sto parlando con lei, certo, che è il capo dei magistrati, certo. Quindi mi chiedo. La prima cosa che mi viene in mente è un eccesso di esposizione personale in qualche caso. Senta, il prossimo appuntamento di questo 1-1 per adesso dov'è? Ma insomma, io in generale preferisco il confronto ai ring di pugilato, mi auguro che si vada in questa direzione. Peraltro i prossimi appuntamenti sono appuntamenti di natura tecnica, un confronto sulla funzionalità del processo. Senta, un'ultima cosa, sempre il procuratore veneziano Nordio dice che aumentare le pene, i reati non serve contro la corruzione, bisogna semplificare le leggi per togliere discrezionalità. Togliere leggi inutili e stupide, su questo anche a torto? Su questo il procuratore Nordio dice una cosa che io ho già detto in passato. Allora siete d'accordo? Su questo sì, ma non basta fare prevenzione, bisogna intervenire con strumenti investigativi più efficaci. L'aumento delle pene può essere una cosa utile se si accompagna a sconti di pena, cosa peraltro che mi pare che ormai sia prevista nell'emendamento, anche se bisogna fare passi ulteriori, strumenti investigativi più efficaci di quelli che abbiamo in materia di corruzione. D'accordo, grazie dottor Sabelli, ci risentiremo sicuramente presto, perché grazie. Non mancheranno le occasioni. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. In quei momenti c'hai il cuore che ti batte forte, l'adrenalina che sale, la testa che ti rimbomba, che sembra che debba scoppiare dentro al casco. Non senti niente, c'hai solo i tuoi fratelli. Solo su quei fratelli puoi contare. Una parte delle nostre forze di polizia è malata, interpreta in un senso autoritario il proprio ruolo. È un problema per la società italiana e per la democrazia del nostro paese. Prima di decidere chi sono gli innocenti e i colpevoli, dovrebbe almeno chiedersi come funziona il lavoro della celere. Tu dicevi alla gente di caricare. Ma che cosa? T'ho sentito io. Da sbarrare. T'ho sentito io. Noi che paghiamo, noi che lavoriamo, dobbiamo essere anche picchiati da chi? Da altre persone che per vivere debbono lavorare. Gli agenti sono agenti che servono le istituzioni e lo Stato, ed è bene proteggere anche la loro sicurezza e la loro libertà personale. Senatore Peppe De Cristoforo, primo firmatario del disegno di legge per introdurre i codici identificativi per le forze dell'ordine. Ecco, senatore, lei è stato portavoce del General Social Forum ai tempi del G8. Crede che gli identificativi degli agenti avrebbero evitato la tragedia di Genova? Ma la tragedia di Genova forse non l'avrebbe evitata, però sicuramente avrebbero aiutato a individuare eventuali responsabilità e avrebbero garantito quella trasparenza che invece purtroppo è mancata, sì. Quando nella fase successiva a Genova, che sono stati fatti vari processi, alla fine. Senta, la proposta, i colpevoli. La sua proposta di introdurre gli identificativi sui caschi degli agenti fa temere il rischio di ritorsioni verso i poliziotti. Il ministro Alfano ha detto: che facciamo? Vogliamo fargli bussare a casa? Cosa risponde ad Alfano? Che è una sciocchezza assoluta e che ovviamente se così fosse avremmo ritorsioni in tutta Europa, visto che i numeri identificativi esistono praticamente in tutti i paesi europei. Quindi è solo un adattarsi a una normativa che è già europea? Certo, c'è una risoluzione del Parlamento europeo molto chiara in tal senso di dicembre, che chiede ai paesi membri di fare una norma di civiltà e di appunto equiparare tutti i paesi a una normativa che dalle altre parti è del tutto scontata. Senta, ma in Italia che c'è questo che dibattito c'è... un po' spinoso. Ma il casco dei poliziotti è personale, quindi? Noi intenderemmo appunto apporre dei codici identificativi in modo da poter facilitare uno strumento di riconoscimento, sapendo perfettamente che si tratta ovviamente di eccezioni, non di regole. Io mica sono così matto da pensare che tutti i corpi di polizia italiana sono composti da persone che commettono soprusi e abusi. So benissimo che no, si no, tratta di certo, comportamenti questo... eccezionali e non, diciamo così, non è questa la regola. Ma una volta collegato il numero identificativo alla gente è per tutta la vita, è sempre quello? Ma questo si può tranquillamente si può decidere discutere. Come fare, si può Senta... tranquillamente discutere. L'importante è che ci sia un principio secondo il quale se io commetto un soprusso e commetto un abuso ci possa essere appunto un modo di risalire, al mio nome, al mio nome. Esattamente. Ecco, nel decreto legge è previsto anche che gli agenti in servizio d'ordine pubblico senza uniforme indossino comunque indumenti che li identificano in modo univoco, cioè il sì, collare dei preti, che cosa? Una cosa così? È un qualcosa che appunto faciliti elementi di trasparenza e che eviti fenomeni che purtroppo sono accorsi in questi anni. Insomma, questo disegno di legge nasce sulla base di un'esperienza diretta, e l'esperienza diretta è quella di situazioni di quella di Genova, quella di Genova e altre simili, no, certo. Non solo quella di Genova, anche altre successive. Situazioni di piazza in cui è capitato che ci sono stati dei soprusi e ci sono stati degli arbitri. Naturalmente, sì. Se non ci fossero stati, non ci sarebbe bisogno di questo disegno di legge, ma siccome ci sono stati e siccome c'è anche una certa impunità, diciamo così, che si è manifestata nel nostro paese, la cosa nasce per queste ragioni. Ma... però insisto, non è assolutamente uno strumento punitivo, è esattamente l'opposto. Insomma, la fine degli infiltrati delle forze dell'ordine nei cortei sarebbe questo, rendere questo elemento identificativo. Naturalmente sulla carta sarebbe così, ovviamente, poi so bene che la pratica concreta è più difficile, però appunto il fatto almeno che... in linea teorica quello almeno è l'obiettivo. In linea teorica sicuramente sì. Per gli agenti è previsto anche il divieto di indossare segni distintivi proprio di professione, cioè giornalisti, medici, serve anche questo in genere perché viene utilizzato in genere? Sono tutte misure cautelative che però, ripeto, hanno, diciamo così, come caratteristica di fondo il fatto di essere già utilizzate nella stragrande maggioranza dei paesi europei. Cioè, sì, non sì, sono, insomma, adeguarsi, noi vogliamo adeguare la legislazione italiana. Ecco, però la maggioranza sarà compatta nel sostenerlo perché il dibattito era previsto, però è slittato. È slittato perché non c'è maggioranza, non c'è accordo, non c'è accordo. Evidentemente c'è anche un imbarazzo, anche perché non c'è accordo ad uniformarsi alle direttive europee. Guardi, io so che ci sono altri disegni di legge oltre al mio simili, uno del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle non fa parte della maggioranza, certo, ovviamente, ma anche uno firmato da diversi esponenti del Partito Democratico, quindi che all'interno del Partito Democratico ci sia sicuramente un'area di persone che la pensa come me su questo punto. Insomma, ce ne sono alcuni ma altri no, e per questo però, è slittato il dibattito. Che ci siano delle dichiarazioni, per esempio appunto a cui lei faceva riferimento, del ministro Alfano, che invece mi sembra vadano dall'altra parte, quindi è possibile, anzi è probabile, che nella maggioranza parlamentare non c'è accordo. Vabbè. E credo che ci siano strettamente per questo, perché c'è un imbarazzo, perché naturalmente però è anche difficile, come lei giustamente rileva, votare difformemente a una cosa invece largamente accettata a livello europeo, peraltro sostenuta anche dai deputati europei del gruppo socialista, ovviamente. Ecco, Gianni Tonelli, presidente del SAP, del Sindacato Autonomo di Polizia, lei ha definito questo disegno di legge una grandissima stupidaggine, perché? È una grandissima stupidaggine perché era un provvedimento pro trasparenza e garanzia in uno Stato di diritto 30 anni fa. Oggi, con la tecnologia a disposizione di tutti i cittadini, quindi figuriamoci di un ente istituzionale come la Polizia di Stato, si può benissimo ottenere più trasparenza, più garanzia da entrambe le parti con altri strumenti. Noi abbiamo regalato con le videocamere. Senta, però c'è in tutta Europa questo strumento che lei considera antiquato, è presente in tutta Europa, perché da noi no? Intanto... è figlio di generazioni passate. Beh, però è una prescrizione, è una direttiva europea che lo certo, ma lo vuole. Una direttiva europea di altri tempi. Noi proprio la nostra proposta che è passata finalmente, abbiamo per provocazione regalato tutti i nostri 20.000 iscritti delle spy pen, e invece istituzionalmente niente. Noi chiediamo di essere messi sotto i raggi X, di certificare ogni nostro respiro. Senta, il SILP, però, che è il sindacato di polizia della CGIL, sì, ha sostenuto che il casco identificativo invece ha un effetto trasparenza verso l'opinione, certo, pubblica, e anche a garanzia di tutti i poliziotti che svolgono bene, correttamente, il loro lavoro. Certo. Lei mi deve perdonare, ma prego, se lei va a chiedere agli iscritti del SILP, della CGIL, sentiranno le pernacchie che si sono vabbè, presi. Adesso questo non c'ho responsabile del SILP, non posso confermarlo. Misurerei molto volentieri e lo facciamo tutti i giorni perché siamo anche, voglio dire, ci rispettiamo molto, siamo cordialmente amici, ma voglio dire, non parla per bocca sua, ma per, voglio dire, altri ambienti. Senta, comunque, il senatore Manconi ha detto che intorno a pochi violenti scatta poi in realtà una pulsione corporativa che ispira una solidarietà da spogliatoio, un po' da ultras. Ma guarda, io, il senatore Manconi, gli ho spiegato che, voglio dire, facendo lui parte, essendo uno degli più autorevoli esponenti del partito dell'antipolizia, queste risposte non mi stupiscono per nulla. Beh, però nel caso Aldovrandi, per esempio, il ragazzo che è morto a Ferrara nel 2005, sì, i quattro poliziotti condannati sono condannati in via definitiva, oggi, sì, indossano la divisa. Certo, sono stati condannati per colpa. Tra l'altro, voglio dire, c'è un provvedimento, ambiscono a un provvedimento di revisione. Se uno si legge le carte, credo che abbia un'idea differente. Vabbè, però di allora se dire, bisogna vedere se, però qui non si tratta di dire, io dico, non chiedo sconti per le responsabilità che i miei colleghi dovessero avere in qualsiasi sede. Il problema è uno, chi non vuole le videocamere ma vuole gli identificativi sono i Casarini e i Caruso. Ho schermagliato in trasmissione no, televisiva però, con loro, però mi scusi, sono loro che non le vogliono. Io voglio essere messo sotto i raggi X. Sì, in però verità, mi scusi, dottor, sì, Tonnelli. In California i poliziotti hanno una telecamera sugli occhiali da sole quando, sì, sono in servizio. Le denunce contro la polizia sono diminuite drasticamente. Assolutamente. Voi accettereste quindi le telecamere? Noi le chiediamo, anzi, noi siamo riusciti, è di oggi la circolare, terminata la sperimentazione con la nostra provocazione, è un anno e mezzo che battiamo tutte le piazze del paese, può fare questa ricerca con migliaia di articoli sul circuito mediatico, sui media e in televisione, a chiedere le videocamere. Io, senta, voglio essere ripreso in ogni ho capito respiro. Ho capito, senta, lei Tonnelli, comunque, per chiudere, lei dice che i codici identificativi non servono più a nulla, che sono in uso in tutta Europa, stanno sbagliando in tutta Europa, sono, no, antichi, sono antichi, non sono sbagliati, sono antichi. Sono figli di provvedimenti, se ci fossero stati 30 anni fa, 20 anni fa, ci sono antichi, diciamo, no, sono antichi, superati. Sono antichi. E infatti cosa stanno facendo? Stanno dotando, come in Francia, di videocamere, perché oramai i codici non servono più a nulla. Va bene, è grazie. È la tecnologia, è il passo dei tempi, i maniscalchi non servono più oggi. Maniscalchi più niente. Ecco, io approfitto di questo argomento per ricordare un grandissimo capo della polizia, Antonio Manganelli. E Sara, tocca a te. Sì, cambiamo argomento. E al cinema il film Fin qui tutto bene, che racconta gli ultimi giorni di convivenza tra cinque universitari che hanno condiviso tutto. Alessio Vassallo, sei uno dei protagonisti. Ma cosa scoprite in quei giorni? Il film parla degli ultimi tre giorni di questi studenti che stanno per lasciare la loro casa e ognuno si andrà a scontrare con il mondo, quindi non avrà più la protezione degli amici, della famiglia, di quella casa dove tutto poteva succedere. E io, grazie a questo film, ho rivissuto in pieno per un mese e 10 giorni quell'esperienza lì. Mi racconti chi è il tuo personaggio brevemente? Io interpreto Vincenzo, sono un vulcanologo, forse il personaggio più con i piedi per terra, perché ho un'offerta dall'Islanda dove mi dicono: vieni in Islanda, ti diamo 3.000 euro al mese a studiare i vulcani. E logicamente con la mia compagna, che è Melissa Bartolini, che lei invece fa parte di questa compagnia teatrale dei Poveri Illusi, lei mi dice: no, ma resta in Italia, io ancora devo avere la mia occasione. E quindi c'è uno scontro, oltre che generazionale, anche di coppia, perché io rispetto a loro, che ancora sono pure loro nel passaggio per diventare adulti ma non sanno bene che fare, una proposta concreta, però è quella di lasciare il mio paese, di lasciare l'Italia, e il mio personaggio vuole farlo perché gli danno un'occasione concreta. Che faccio? È un po' il dilemma di tanti ragazzi. Senti Alessio, passare, lo dicevi prima, no? Dall'adolescenza alla maturità. Oggi sembra però che riescano a farlo in pochi. Che fare quindi? Guarda, ci sono secondo me molti anche ragazzi che invece si danno da fare e riescono a fare questo passaggio. È normale che penso, io almeno per l'esperienza mia personale, sono andato via di casa che avevo 19 anni da Palermo e sono venuto a Roma, quindi mi sono buttato nel mare romano, nella capitale, quando avevo 19 anni. Rimanere a casa fino a 30-35 anni con mamma e papà non aiuta. Tu hai una proposta, no? Io sì, ho una proposta. Dico, lo Stato italiano dovrebbe obbligare, come il vecchio militare, che secondo me poi formava, ma fino a un certo punto, tutti a fare un anno di convivenza con gli altri, un anno di co-housing, perché è veramente l'anno che ti forma, dove impari a stirarti una camicia, impari a fare una frittata anche male, impari a condividere qualcosa con qualcuno. Io mi ricordo la cucina, trovavi una puzza incredibile, ma qualcuno con il quale confidare le tue passioni, raccontare le tue sconfitte, le tue vittorie, con cui è formativo. Sono gli anni formativi, cioè è veramente formativo. E invece, Alessio, per quelli che diciamo sono adulti ma non sono ancora riusciti a oltrepassare l'adolescenza, che consigli hai? Godetevela. Invece voi sembrate, spero non la prenderai male, più un gruppo di amici che un team di attori. Ma com'è nata questa complicità? Ce l'hanno anche detto in conferenza stampa ed è una giusta osservazione. E invece no, perché siamo tutti attori con già esperienze lavorative importanti alle spalle, con tutti diplomati da o Silvio D'Amico, centro sperimentale. Però la forza del film è proprio questa, c'è il real. E noi che abbiamo vissuto, anche perché non c'era una lira, cioè non c'avevamo albergo, niente, abbiamo vissuto dentro una casa per un mese e 10 giorni con gli stativi, le luci, cioè la casa del film. Sì, la casa del film, noi vivevamo lì dentro. Fantastico. Quindi si è creato quel gruppo, quei veramente fatici momenti all'università, cioè il bagno sempre occupato, la pasta col nulla, cioè, esatto, l'avete mangiata davvero? Certo, apri il frigorifero e quello che hai, un pezzo di formaggio, crei una pasta col nulla. E mi ricordo l'unica notte che abbiamo passato in albergo è stata fenomenale, il secondo giorno, perché io dormivo, arrivano le ragazze in camera e mi dicono: Alessio, guarda che il palazzo accanto sta prendendo fuoco. Scappano, io fumo nero dentro casa, scendo, chiamiamo il regista perché non c'era, e diceva: guarda, faceva anche l'amministratore, sì, faceva tutto. Qua prende fuoco tutto. E allora una notte l'abbiamo passata in albergo per causa di forza maggiore, però la forza è stata questa, c'è, cioè il gruppo. Alessio, ma qual è la cosa in cui è stato più bravo Rohan, il regista? Rohan è stato bravo a cogliere questa malinconia di lasciarsi la vita forse più spensierata, la malinconia di doversi prendere delle responsabilità. Invece il film si chiude con voi in mezzo al mare. Che cosa significa? Significa che comunque, anche se appunto ci lasciamo alle spalle questo periodo, finiamo in mezzo al mare, bisogna continuare a remare. È quello. Remare, remare, remare. Mix 24. Tutto intorno sembra aver trovato un senso che ti invade e mi assale. La paura di sfiorarti nelle mani incontra il mio sudore. Io non posso fare altro che ammirare come un uomo aspetta passi il temporale purché torni il sole. Allora, Pietrangelo, oggi? E oggi in metropolitana se ne stavano seduti nel vagone il cuore e l'anima. Lei teneva i suoi capelli raccolti con una matita e lui se ne stava immerso nella lettura dei giornali sul suo iPad, quando d'improvviso lei, avvolta nel suo cappotto casentino, giusto per dispetto, gli spegne il tablet. È buio, disse, e lui sorrise. Guardandosi, s'accese il loro la luce, anzi il sole entrò nel frattempo, entrò alla stazione Ottaviano, arrivava da viale Giulio Cesare. E dentro il sole, portato da Krishna in persona, il dio bambino, che lo collocò nel suo carretto e così gli diede parola. E il sole raccontò che si nasconde oggi per aprire un inizio di una primavera mai così tanto desiderata come oggi. E quindi auguri di Noruz a tutti. La canzone è Sole, la canzone è Sole di Negramaro. Sole di Negramaro, Mario. Sole? Tu? Dove ci sola. Porti? Sola, tu sei verso la sola. Vabbè, dai. A Roma vuol dire fregatura. Volare. Oh. Allora, che succede, caro Giovanni, caro Pietrangelo, cari ascoltatori di Mix 24? Il governo perde ministri come Birilli. Lupi si dimette, il premier non dice una parola, e dunque l'hashtag qual è? Caro, qual è l'hashtag di questa cosa secondo voi? Stai sereno. Stai sereno. Ma non perché lo stai sereno? Questa volta forse. Matteo. Forse. Mi sa che... Il signor Renzi. Non lo so. Anche a destra, anzi, come si diceva un tempo, in fondo, a destra, succedono cose meravigliose. Tosi si candida contro Zaia, Fito si candida contro tutti in Forza Italia, posso dire. Sì, dillo, va, lo pensiamo tutti. Una gioia mortale, mortale. Nel frattempo, segnalo che in Francia domenica si vota e qua succederanno cose molto interessanti che secondo me cambiano un po' lo scenario politico ulteriormente della Francia, che è in grande evoluzione. Se cambia la Francia vuol dire che cambiano alcune cose in Europa, come sapete, eccetera. Insomma, è un mare un po' in tempesta. E insomma, il voto locale previsto per domenica vede strafavorito il Front National, certo, di Marine Le Pen. Pensa, potrebbe prendere da solo il 29% dei voti, cioè quanto è calcolato e stimato l'UMP con i suoi alleati. Beh, è questo sì. E quindi per celebrare, diciamo, questi cambiamenti, noi dobbiamo ascoltare. Questo ancora non è avvenuto. Beh, qualcosa succederà, vedrai. Che cosa ascoltiamo? L'astro di jour fait boom. Chastri. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois. Salamino! Salamini di copiatura, adesso copio Mario nel solco, e certo nel solco di ciò che hai detto mi infilo anch'io nel raccontare come Maurizio Lupi ieri ha rassegnato le dimissioni. Dai. Ieri quelle sostanziali, perché le ha fatte a porta a porta, Mai in Parlamento, oggi quelle formali, no, quelle formali verranno fatte oggi davanti alle istituzioni. Lupi è un esponente di NCD, che sarebbe il partito di Angelino Alfano, nella cui sigla, esattamente Nuovo Centrodestra, è contenuta la parola destra. E questo mi apre una riflessione. Però a margine della vicenda io vorrei fare un'osservazione e riguarda l'oscena contrattazione fatta da NCD al mercato del capro, cioè per ogni ministro da dimissionare, per ogni Lupi da togliere, chiedere in cambio tanti posti di sottogoverno. Ma... E NCD ieri, consolando Lupi con un sorriso, con un ghigno invece si rallegrava. E oggi leggevo sui giornali una battuta raggelante: sarà ministro solo su Wikipedia per poche ore, dopodiché Tobis. Allora, lode a Fabrizio Cicchitto, che ha difeso Lupi fino alla fine. E lode, doppia lode, annunzia De Girolamo che, inorridita dalla vecchiezza a cui si è ridotto il rottamatore, la cui storytelling è diventata ormai risolta in un hashtag, cioè Renzi stai sereno, beh, perché vedi, altro non è che un doroteo, io vorrei fare un gioco di paragone, quindi... prendere quell'NCD che è la destra presentabile, tanto è vero che Renzi ce l'ha nel governo, e io vi vorrei far sentire come venne presentata nel blu. Venne presentata nel blu, però ci fu una confusione. Eh sì, mi pare. Vabbè, la situazione è questa. La regia sei imbambolata. È venerdì. Vai. Allora, nel blu la presentò così Angelino Alfano. C'è? Non c'è. Non c'è. Allora disse che gli ricordava Miró. Allora, ma se questa è la destra presentabile, allora meglio, molto meglio quella becera, ascellare e rasata, e io ve la presento con le note di 270 bis. Ma il cielo è sempre più blu. Vabbè. Si è rotto il meccanismo del racconto di Renzi, non c'è dubbio, perché lui, che ci ha sempre messo la faccia, doveva dire: non te ne vai o resti? Perché te ne vai o perché resti? E sarebbe rimasto Renzi. Così sì, ha parlato attraverso, diciamo, le linee dei giornali, l'hanno sempre, va bene. L'hanno sempre fatto tutti, non c'è che... nessuna differenza, una bolla ancora. Vai. Sono bei giri di chitarra. Had to cry today è questo pezzo, è da piangere oggi. No, noi speriamo di no, nonostante l'eclisse eccetera. E Amazon comincia la sua fase aerea, Giovanni. Ha ottenuto la licenza per cominciare a sperimentare le spedizioni coi droni. Ora tu ti immagini, ci vorranno anni, ma tu ti immagini la scena, il drone arriva. Dai. Bussa a casa di Buttafuoco e gli dice: abbiamo per lei un romanzo di Fabio Volo. E lui giustamente gli fa: avete sbagliato indirizzo. Anzi, come glielo diresti tu? Avete sbagliato indirizzo. No, no, lo prendo. No, no, lo prendo. Sempre in classifica. Quindi diciamo, questo è un primo passo. Peggio verso se mi arrivava evoluzione. Quello della Boldrini. Beh, ma tu non puoi parlare Boldrini. Male della terza carica dello Stato in questa maniera. Solo della seconda. Cerca di contenerti, per favore. L'economia non è solo ovviamente digitale, internet e così via, esiste anche quella che è la cara vecchia old economy. Segnalo che c'è in corso la fusione, riprende la fusione di due giganti del cemento, la Ossim e la Farge, e valore dell'operazione 41 miliardi di euro. Vai. Mix 24. Come ogni venerdì è arrivato il momento della nostra posta del cuore. Lo ricordo, se volete raccontarci i vostri problemi di cuore, mix24@radio24.it. Sara, oggi chi ci scrive? Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. Sono innamorata del ragazzo della mia migliore amica. Stanno insieme da anni e lui e io ci siamo sempre stati molto simpatici. Ma ripensarci adesso forse anche qualcosa in più. Comunque tutto è cominciato un paio di mesi fa, quando sono tornata single. Da allora lui ha cominciato a guardarmi in modo diverso, più insistente, quegli sguardi profondi tenuti 2 secondi più a lungo del normale. Ho cercato di evitarlo, ma la comitiva di amici è quella e ogni volta che ci incontravamo sentivo crescere l'emozione di tutti e due. Poi l'altra sera una festa mi ha presa da parte. Se fosse l'ultima notte del mondo, con chi vorresti passarla? E senza darmi il tempo di rispondere, io con te, come adesso, e mi ha baciata. Sono scappata, ma non ho mai provato niente di così bello. E anche se non voglio tradire la mia migliore amica, non so se riuscirò a rinunciarci. Aiuto. Fede 87. Aiuto. Aiuto. Allora bisogna chiedere aiuto. A Pietrangelo. È ovvio. Eccomi. Non so, sta lettera mi ha frastornato. Allora mi aiuto pescando nella saggezza islamica. Vi racconto la storia di quel tale che andò da una ragazza particolarmente bella, dallo sguardo che accendeva i desideri e i sogni. E allora andò da lei e disse: io vi vorrei assaggiare, vorrei baciarvi e prendervi e sentire e conoscere il vostro sapore. So che siete sposato a un altro uomo, ma vorrei fare questo. E allora lei rispose: perché mai vorreste assaggiarmi? Ma per vedere la differenza che c'è tra voi e mia moglie. Ah, ma se per questo potete risparmiarvi la fatica. E come mai? Come fare? Chiedete a mio marito, ha già assaggiato la vostra. Tremendo. Mamma mia, terribile saggezza islamica. Allora, io a Federica direi questo: amore o no, da come ti comporti in certe situazioni, secondo me si capisce chi sei. E in amicizia, sempre secondo me, bisogna dare e non prendere. Che buona moralina. La moralina inaina, hai capito Mario? Ti perbenisco. Tu prendi o dai in amicizia? Un messaggio alle mie amiche, io insomma. Io finora le ho prese. Lasciate stare il mio fidanzato, sì, questo volevi dire, va bene. Allora, va bene. Mario, c'è ancora una bolla? C'è una cosa molto divertente. Ci siamo in regia, siamo pronti. Ok, sentite questo pezzo. Ok, bene. Ora, questo è Blurred Lines. Ora vi faccio sentire un altro pezzo. Bello. Notate qualcosa? Allora, uno era Blurred Lines, l'altro è Got to Give It Up di Marvin Gaye. Allora, la cosa interessante è che questi due brani sono finiti in tribunale, perché sono molto simili. Ed è finita che Pharrell Williams ha perso la causa insieme a Robin Thicke contro gli eredi di Marvin Gaye. La situazione è roba milionaria. La cosa è enorme, perché significa che chiunque riprenda un motivo, diciamo un accordo di un'altra canzone, e finisce condannato. Per cui Pharrell Williams ha detto che questa cosa non va bene, che la sentenza è cattiva. Però sentite di nuovo, questo è Marvin Gaye e adesso questo è Blurred Lines. E quindi alla fine? E alla fine non copiate quello che volete che mi dica. Sono simili, non sono uguali. Sono simili, non sono uguali. È un genere. Come diceva Frassica, no? Se copi uno, se copi uno è copiare. Se copi tutti, è studiare. Approfondire. Il 20 marzo del 94, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vengono uccisi a Mogadiscio. Ce lo ricordiamo tutti. L'agguato alla giornalista del TG3 e al suo operatore è un caso che però è ancora irrisolto. Tanti misteri e solo un mese fa l'ultimo colpo di scena. Il super testimone del processo dichiara alla trasmissione Chi l'ha visto che l'uomo in carcere accusato per l'omicidio è innocente. A Mix 24 con Marina Milone, dopo il giornale radio, ricostruiamo questa intricatissima storia. Però oggi, lo ricordiamo, è il giorno del coso del sole. Stiamo a eclissare dell'eclissi tutti. Di sole, no? Però c'è ancora luce fuori. C'è ancora luce. A che ora è l'eclissi? Adesso, tra poco. Tra poco? Tu ti sei eclissato. Io rinnovo gli auguri per il Nowruz, festa dove il sole canta la primavera. Così. E noi, con Vinicio Capossella, si è spento il sole. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Quando un altro dal mio cuore ti può innamorare, non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò, io cercherò.